Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Ancora un attacco contro gli italiani in Afghanistan, morto un alpino, è il quarto soldato ISAF ucciso oggi. Processo Mediaset, Berlusconi non si presenta davanti ai giudici, processo rinviato all'11 aprile. Il governo libico, gran parte del paese sotto controllo e ritorsioni se l'Occidente interviene, i ribelli avanzano verso Tripoli. Questa sera la sfida a campionato Milan-Napoli, ricordando gli anni Ottanta. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini, un militare italiano del reggimento Alpini di 36 anni è morto nell'ovest dell'Afghanistan nell'esplosione di una bomba. Altri quattro soldati sono rimasti feriti e sono in gravi condizioni. Il soldato morto è il quarto ucciso oggi tra i militari della forza internazionale ISAF. Vanessa Quinto ha chiesto al portavoce dello Stato Maggiore della Difesa, il generale Massimo Fogari, di riepilogare i fatti di questa mattina. Quest'oggi alle 12.45 circa ora locali, a circa 25 km a nord dall'abitato di Shindad, un nostro veicolo è stato colpito dall'esplosione di un ordigno improvvisato, di un IED. Questo veicolo faceva parte di un'autocolonna composta da 12 automezzi italiani ed uno dell'esercito afghano che stava portando aiuti umanitari alla popolazione locale. A seguito dell'esplosione un militare è deceduto ed altri quattro sono rimasti feriti. Sono già stati evacuati sul Roll 2, quindi un'infermeria con capacità di un livello medio, e siamo in attesa di sapere esattamente come possano essere le loro condizioni di salute. Il Presidente della Repubblica Napolitano esprime i suoi sentimenti di solidale partecipazione al dolore dei familiari del caduto e un affettuoso augurio ai militari feriti, quanto si legge in una nota del Quirinale. E della nostra missione in Afghanistan ha parlato questa mattina anche Silvio Berlusconi a Milano. A seguire il Premier c'è Paolo Piacenza in diretta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Come avete detto, il Presidente del Consiglio è arrivato qui a Milano intorno alle 11.30 a Palazzo Reale insieme al Ministro Brambilla per lanciare l'iniziativa al servizio dei cittadini che punta a rilanciare il partito sul territorio. Il primo punto è stato toccato, è stato infatti l'Afghanistan. Il Premier ha riferito dell'agguato esplosivo che ha colpito i nostri militari. È un calvario, ha detto, tutte le volte che succede ci si domanda se valga la pena questo sacrificio che noi imponiamo con un voto unanime del Parlamento per far crescere la democrazia in un paese che è ancora medievale senza civiltà. Poi è passato alla politica, ha sottolineato che i sondaggi danno il PDL al 30%. Sentiamo. Ove il terzo polo persistesse nella volontà più volte espressa di essere alleato con la sinistra, i sondaggi fatti con i focus eccetera ci danno un risultato di tutto il terzo polo inferiore a 10%, e quindi il Futuro Libertà avrebbe un 1,3-1,6%. Soffermato sulla difficoltà a far valere i risultati ottenuti dal governo e sugli ostacoli alla crescita dell'economia, debito pubblico, bilancia energetica negativa, limiti infrastrutturali, pubblica amministrazione pletorica, giustizia lenta, qui ha ribadito la necessità di approvare il processo breve così come una norma che limiti le intercettazioni. Ora il Premier si trova nella sede di Confcommercio dove è ospite di un'iniziativa di Rete Imprese Italia in cui le imprese interrogano il governo, ci sono i ministri Gelmini, Romani, La Russa e Rotondi. Berlusconi concluderà poi i vertici del PDL, si riuniranno per battezzare con un pranzo con il Premier il nuovo coordinamento regionale lombardo del PDL. E da Milano è tutto. Naturalmente ci scusiamo per la cattiva qualità del collegamento, del resto queste sono le linee telefoniche a volte. Ora il processo Mediaset sulla presunta frode fiscale per i diritti televisivi che vede coinvolto sempre Silvio Berlusconi, in diretta dal Palazzo di Giustizia di Milano, Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, il processo Mediaset riprende ed è subito scontro tra i giudici e gli avvocati di Berlusconi. In questa prima udienza, dopo l'interruzione in attesa della pronuncia della consulta sul legittimo impedimento, il Tribunale ha chiesto alle difese di ridurre le loro corpose liste di testimoni in nome della ragionevole durata del processo, ma questo per Niccolò Ghedini, difensore del Premier, è un attacco al diritto di difesa. Sentiamolo. Non è un bell'inizio quello di oggi, perché dopo aver fatto 6 anni di processo con tutti i testi del pubblico ministero, oggi il Tribunale comincia dicendo che vuol ridurre i testi della difesa. Se questo è il giusto processo o il modo per potersi difendere, è davvero straordinario. Per cui se ci impediranno anche qui di difenderci, come già è stato nel processo Mills, io credo che ci troviamo di fronte a una situazione di eccezionale gravità. De secondo l'avvocato, è la partecipazione in aula di Berlusconi l'11 aprile, data della prossima udienza Mediaset. Non è presente invece oggi il Premier, che diventa per questo contumace per la Corte, visto che non è stato sollevato il legittimo impedimento, e non lo sarà nemmeno sabato alla ripresa dell'udienza preliminare Mediatrade, mentre potrebbe essere evocato quando in aula il 6 aprile arriva il Ruby Gate e Ghedini anticipa la loro intenzione di chiamare a deporre anche la giovane marocchina, nonostante le sue contraddizioni. E dal Tribunale di Milano è tutto. Bene, grazie Raffaella. E sempre a proposito di politica, soddisfazione nel Partito Democratico intanto per la grande affluenza alle primarie di Torino. Più di 53.000 votanti hanno dato la vittoria a Piero Fassino con oltre il 55% dei voti. Fassino sarà dunque il candidato sindaco del centro-sinistra nel capoluogo piemontese alle amministrative di maggio. Alle 13.06 minuti cambiamo decisamente argomento. Un mazzo di fiori sul banco vuoto di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, uccisa e abbandonata in un campo a pochi chilometri da casa. Chi ha compiuto un atto del genere si costituisca e confessi, chiede la preside della scuola di Yara. Oggi a Milano è prevista l'autopsia. Riparte dall'autopsia effettuata oggi nell'Istituto di Medicina Legale di Milano il caso Yara. Dall'esame medico-legale si attende la conferma di quanto ipotizzato dopo il ritrovamento del cadavere, che la tredicenne scomparsa da Brembate Sopra il 26 novembre scorso sia stata uccisa a coltellate. All'autopsia, i cui risultati completi arriveranno solo tra 2 mesi, il compito anche di accertare se ci sia stata o meno violenza sessuale e se, come gli investigatori sembrano ritenere, la ragazza sia stata uccisa nelle prime ore dopo la scomparsa e il corpo sia stato abbandonato subito dopo nel campo di Chignolo d'Isola, dove sabato è stato ritrovato. Non si poteva non vedere, ha dichiarato il capo della Protezione Civile di Brembate Sopra, Pietro Valsecchi, il quale si dice convinto che l'assassino non sia una sola persona. Gli investigatori intanto sono al lavoro sulla SIM card e sulla batteria ritrovate senza il telefonino accanto al cadavere, mentre vengono esaminate le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'azienda proprietaria del campo e i dati della cella telefonica che copre la zona. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arrestati 4 educatori e una docente di una fondazione a Maddaloni in provincia di Caserta. Gli educatori sono indagati per maltrattamenti su minori di età tra gli 11 e i 16 anni. L'insegnante è indagata per abuso sessuale ai danni di 2 alunni di 11 anni. Ascoltati da una psicologa, numerosi bambini e adolescenti ospiti della struttura hanno parlato di sistematico ricorso a metodi brutali ed umilianti da parte degli educatori. Andiamo all'estero, parliamo della Libia, dove continua l'avanzata dei ribelli verso la capitale Tripoli, e oggi ha parlato un portavoce del regime dopo la durissima risoluzione delle Nazioni Unite che prospetta anche il deferimento di Gheddafi alla Corte dell'Aia. Se gli imperialisti occidentali ci attaccano, ha detto il portavoce, ci saranno migliaia di morti. Ibrahim Moussa, il portavoce, ha accusato l'Occidente di volere il petrolio libico e Al-Qaeda di volere una base sul Mediterraneo per minacciare l'Europa. Da Bengasi sentiamo Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore. Sì, buongiorno a tutti. In questo momento ci stiamo dirigendo a Brega. Brega è un terminal petrolifero molto importante, conquistato dalle forze dell'opposizione, e segna, per così dire, il confine del territorio controllato dai ribelli, e poi al di là c'è invece sulle forze di Gheddafi. Dopo Brega c'è questo importantissimo terminal Ras Lanuf, che è però isolato e completamente circondato. Le forze dell'opposizione sostengono che il 75% del petrolio della Libia e delle loro mani, ma di fatto solo il 20% di questa quantità sarebbe funzionante. A Bengasi, intanto, a 1.30 da qua, ieri è stato formato il Comitato Nazionale. Hanno precisato le persone che lo presiedono, tra cui l'ex ministro della giustizia che aveva abbandonato Gheddafi all'inizio della rivolta, che non sarà un governo de facto. In teoria però lo è, perché la Cirenaica è diventata in questo momento una sorta di Stato a sé, per quanto i libici qua sostengono che non sarà uno Stato fino a che Tripoli non sarà liberata. L'impressione è che comunque la caduta del leader libico, del colonnello sera da 42 anni non sarà una cosa di impressione di pochi giorni. Per ora da Bengasi è tutto. Bene, grazie Roberto, buongiorno. E giusto per farvi capire che cosa sta succedendo anche oggi in altre zone, decine di migliaia di dimostranti sono nuovamente scesi in piazza in Yemen per chiedere la fine del regime del presidente Ali Abdullah Saleh. Nella capitale Sana'a ci sono circa 5.000 persone che hanno presidiato per tutta la notte le strade intorno all'università. Altre manifestazioni sono in corso in altre città. E un giovane algerino è morto dopo essersi dato fuoco davanti alla prefettura di una cittadina a 230 km a est di Algeri. Si tratta del quinto algerino che si uccide dandosi fuoco dalla metà di gennaio a oggi. Sulla situazione in Libia, tra Libia e mondo arabo, sentiamo il commento di Alberto Negri. Gli eventi in Nord Africa stanno accelerando. A Bengasi è nato un consiglio nazionale che si propone di scalzare Gheddafi e governare provvisoriamente il paese. L'America si dice pronta a sostenere i ribelli. Nella capitale della Cirenaica stanno per arrivare aerei francesi in missione umanitaria. In Tunisia c'è un nuovo primo ministro e si profila l'apertura di un corridoio umanitario per gestire il flusso dei profughi dalla Libia, in particolare egiziani. La Tunisia, con riferimento rivoluzionario, ha dovuto accogliere migliaia di persone. Un'emergenza che al confronto con le italiane fanno ridere. L'Italia appare invece sempre un passo indietro agli avvenimenti. Si chiede se il trattato con la Libia sia operativo o no, una questione francamente secondaria non essendoci più uno Stato libico. Dovremmo invece muovere navi ed aerei per sostenere almeno le esigenze umanitarie della Libia liberata, giusto per rifarci un po' l'immagine dopo le mappe figure delle settimane passate. A Ginevra intanto è riunito il Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani, presenti i ministri degli esteri di tutti i paesi, compresa la statunitense Hillary Clinton. Il titolare della Farnesina, Frattini, proporrà tra l'altro l'invio di una missione di monitoraggio. Sempre oggi l'Europa, l'Unione Europea, si accinge ad annunciare sanzioni contro il regime di Gheddafi. Vi do una notizia di poco fa: il presidente yemenita annuncerà la formazione di un governo di unità nazionale entro le prossime ore. Questa è una notizia uscita pochi secondi fa, riferita dalla TV Al Jazeera. Edizione delle 13 di GR24, un aggiornamento sulla notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione, cioè la morte di un soldato italiano in Afghanistan. Poco fa è arrivata una dichiarazione rilasciata a Ginevra del ministro degli esteri Frattini, che dice: il nostro dovere è rispettare gli impegni internazionali che abbiamo preso con la NATO e con le Nazioni Unite. Così Frattini ha commentato anche la considerazione fatta in mattinata dal premier Berlusconi, che oggi si è chiesto se valga la pena di restare in Afghanistan dopo appunto la notizia della morte di un altro soldato. Adesso riprendiamo questa edizione di GR24 con il calcio, con una sfida di cartello che si gioca questa sera a Milano, una sfida che ha il sapore di altri tempi, come ci racconta Dario Ceccarelli, che mi ha raggiunto in studio. Ciao Dario. Allora, perché altri tempi per questa sfida tra Milan e Napoli? Buongiorno Enrico, sì, hai detto bene, altri tempi, perché ricorda Milan-Napoli degli anni Ottanta, quelli per intenderci di Gullit, Van Basten nel Milan e Maradona e Carica nel Napoli. Anni di grande calcio e di grandi scontri, da una parte la rivoluzione di Sacchi, dall'altra l'esagerato talento del Pibe de Oro. Polemiche, rasoiate, due mondi a confronto che riempivano gli stadi e le pagine dei giornali. Adesso un'altra cosa, un profilo più basso, il Milan di Allegri in testa, ma deve guardarsi dagli avversari, tra questi oltre all'Inter, che ormai ha due punti, anche il Napoli di Mazzarri, che con una vittoria a San Siro raggiungerebbe i rossoneri. Come finirà? L'abbiamo chiesto a Nando De Napoli, mediano partenopeo ma rossonero nel finale di carriera. Sentiamolo un attimo. Finirà o con la vittoria del Milan o con Napoli. No, stasera rischieranno qualcosa sicuramente tutte e due. Stasera anche Milan dice, anche perché l'Inter ha vinto ieri, allora vuole vincere a tutti i costi, come il Napoli, penso io. E trova che è più solido il Milan nel suo complesso, oppure il Napoli può essere un'alternativa anche di scudetto? No, è più solido il Milan, anche se il Napoli sta bene fisicamente in questo momento. Gli mancherà la Vezzi, che è importante, però sta bene proprio fisicamente, si vede, le ultime partite corrono fino al 90°. Il Milan c'ha una rosa più ampia, giocatori più forti. Insomma, partita aperta, un pareggio non serve a nessuno. Da notare che non mancano le punzecchiature. L'allenatore partenopeo Mazzarri accusa il Milan di godere dell'appoggio della stampa del Nord e in una certa misura quindi anche degli arbitri. Sceglilo tu l'arbitro, ha replicato l'allenatore Allegri del Milan. Insomma, fuochi d'artificio, anche se si spera che i veri fuochi l'accendano i due bomber, Ibrahimovic per il Milan e Cavani per il Napoli. Per il momento è tutto, a te la linea. And the Oscar goes to... The King's Speech, Ian Canning. Questo è l'annuncio dell'Oscar assegnato questa notte, le mitiche statuette d'oro, i premi di quest'anno all'insegna del British e dell'Old Style. The King's Speech has just become part of Oscar history. Anne and I have had an amazing time tonight. Il discorso del re è appena entrato a far parte della storia dei premi Oscar. Così Anne Hathaway e James Franco concludono la lunga celebrazione degli 83esimi premi dell'Academy. Il film ha vinto 4 Oscar, i più importanti: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior attore protagonista. And the Oscar goes to Colin Firth, The King's Speech. Per un film molto inglese che trionfa uno molto americano che resta a quota zero, Il Grinta. Si accontenta di 3 statuette anche il film più promettente e moderno, The Social Network. E Inception ha vinto 4 statuette, ma tutte tecniche. Le donne? Natalie Portman, miglior attrice per Il Cigno Nero. La danese Susanna Bier vince la statuetta per il miglior film straniero con In un mondo migliore. Oh my God, this is a real Oscar. Non è riuscita invece l'impresa all'unica candidata italiana, Antonella Cannarozzi. Come sempre, il momento più toccante è quello dell'In Memoriam, dedicato agli artisti scomparsi durante l'anno. L'Academy ha ricordato anche i nostri Mario Monicelli e Dino De Laurentiis. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso abbiamo alcuni numeri, alcune notizie di economia e comunque che ci parlano di numeri in giro per il mondo. Iniziamo dalla Cina, perché la popolazione della Cina era alla fine del 2010 di 1.340.000.000 di persone. Lo scrive l'agenzia Nuova Cina citando dati preliminari del censimento che si è tenuto a novembre, che ha impiegato 6 milioni di ricercatori. Naturalmente questi sono dati ufficiali e spesso si dice che in Cina ci siano molte persone che non vengono censite ufficialmente. Eurostat intanto calcola che a gennaio l'inflazione dei paesi dell'area euro sia salita al 2,3%, in dicembre era stata del 2,2%, superando così la soglia del 2% per la prima volta dal novembre 2008. JP Morgan sarebbe in trattative per acquisire il 10% di Twitter. Secondo il Financial Times, l'operazione porterebbe il valore complessivo del social network a 4,5 miliardi di dollari. Gli italiani restano insoddisfatti di quello che istituzioni, forze politiche e sociali mettono in campo contro la crisi. È quanto emerge dall'indagine periodica riferita a febbraio condotta da Confesercenti ISPO. In particolare continua a diminuire la percentuale di contributo al superamento della crisi nei confronti del governo, che cala di 8 punti dal 23% di settembre al 15% di febbraio. Ed è boom anche in Italia per i siti di social shopping, vero e proprio fenomeno del momento in rete. Si tratta di siti in cui attraverso i coupon di gruppo è possibile acquistare prodotti e servizi a metà prezzo. L'americano Groupon, leader nel settore, vanta 50 milioni di clienti e vendite per 800 milioni di dollari. Nato solo 2 anni fa, negli ultimi 12 mesi ha registrato una crescita del 200%. Anche in Italia ha raggiunto, pensate, i 5 milioni di utenti. Come si spiega questo boom? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto a Ombretta Capodaglio, marketing manager della divisione online di Nielsen. I motivi che a nostro avviso hanno determinato questo grosso successo sono sostanzialmente 3. Il primo è sicuramente il fatto che rispondono alla crescente esigenza di risparmio dei consumatori con l'offerta di servizi a prezzi molto scontati. Il secondo fattore è insito proprio nella tipologia di servizi che vengono offerti. Si tratta, diciamo, di servizi che superano le barriere allo shopping online, che invece rileviamo ancora per l'acquisto di prodotti per i quali diciamo è importante il punto fisico per poterli toccare con mano. Il terzo e forse più importante fattore è la crescente diffusione della rete, in particolare tra i siti più visitati ci sono i social network, che sono proprio i social network che consentono, grazie alla viralità, possono generare con la diffusione dell'offerta a tutti i conoscenti, amici, e che quindi a nostro avviso hanno contribuito maggiormente al successo di Groupon. Si è spento all'età di 110 anni Frank Buckles, considerato l'ultimo veterano statunitense della Prima Guerra Mondiale. Al mondo ci sarebbero ora solo altri due sopravvissuti, un australiano di 109 anni e un britannico di 110, tra le 65 milioni di persone che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale. Oggi è la quarta giornata mondiale delle malattie rare. Nicoletta Carbone ne ha parlato con Bruno Dalla Piccola, direttore scientifico del Bambina Gesù di Roma, e di Orphanet, un servizio di informazioni al pubblico sulle malattie rare e i farmaci orfani. Sono 8.000 queste malattie, conosciamo solo in parte le loro basi biologiche, abbiamo a disposizione solo un numero di farmaci non adeguato per combattere tutte queste malattie, la ricerca ha bisogno di crescere, la presa in carico e la rete dei pazienti deve migliorare, quindi c'è molto da fare, ma c'è sicuramente una sensibilità crescente nel Paese e questo è un auspicio, un ottimismo per quello che andremo a fare proprio nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Diciamo che ci sono due emergenze fondamentali, l'una è e poter ampliare ulteriormente questo elenco del numero delle malattie che sono fermi ad una legge di 10 anni fa. La conferenza Stato-Regione ha già allargato di un centinaio di queste malattie, quindi crediamo che sia ormai maturo il tempo per consentire ad altri pazienti rari non ufficialmente riconosciuti di essere riconosciuti. La seconda cosa è sicuramente ci chiama l'Europa nel 2013 a fare la rete delle malattie rare, quindi un qualcosa che darà indicazione a tutte le regioni per consentire omogeneità a tutti i pazienti. Alle 13:25 minuti, da una giornata mondiale ad un'altra, per concludere potremmo dire con calma questa edizione di GR24, perché oggi è anche la quinta giornata mondiale della lentezza, una giornata in cui rallentare è d'obbligo per riflettere su come impiegare meglio il nostro tempo. Il presidente di una onlus che si chiama L'arte del vivere con lentezza, Bruno Contigiani, intervistato da Adriana Fracchia. La giornata è un momento nel quale noi invitiamo tutte le persone a riflettere assieme sui danni sociali, cioè la mancanza di tempo per le relazioni sociali, per la famiglia, per gli amici, sui danni economici, cioè questa società che cerca il maggior profitto nel minor tempo possibile, anche spesso a discapito delle persone e dell'ambiente, sui danni ambientali, non c'è mai tempo per la raccolta differenziata, per dare lunga vita agli oggetti di uso quotidiano, usiamo sostanze chimiche eccessive, e poi sui danni culturali, poco tempo per il teatro, per il cinema, pochi soldi per il teatro e per il cinema, insomma di questa vita che è vissuta e immaginata solo freneticamente. L'appello di Bruno Contigiani per la lentezza. Ma siate gentili con voi, regalatevi un po' di tempo e così sarete felici con gli altri e soprattutto vi godrete un po' di questo splendido ambiente nel quale possiamo continuare a vivere assieme ai nostri affetti. Bene, con questo appello, con questi consigli concludiamo questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Pagliarini, che assieme alla redazione vi auguro una buona giornata. Grazie per l'ascolto e grazie anche a Filippo Aureggi in regia. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.